prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. This is the epicenter of the outbreak. In a city of a million, almost 50 new cases are reported every day. È la più grave in termini di numero di casi e di decessi. Talmente grave che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha indetto per i primi di luglio, ma è una crisi subregionale che necessita dell'intervento dei governi. Adesso la paura dell'Ebola è arrivata anche in Europa. Cresce l'ansia in Spagna. Ci sarebbe una seconda. Nel dicembre 2013 in Guinea è cominciata quella che fino ad oggi è stata la più grave epidemia di Ebola nella storia. Ha coinvolto Sierra Leone e Liberia, oltre alla stessa Guinea, e ha infettato più di 26.000 persone, ne ha uccise 11.000. Attualmente l'epidemia sta rientrando, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è del tutto terminata in Liberia, mentre negli altri due paesi si registrano pochissimi casi di nuove infezioni. La ricerca intanto ha messo a punto un vaccino capace di contrastare il virus. Anche la paura che il virus arrivasse nelle nostre case, così come in alcuni frangenti apparve, è rientrata. Insomma, si può dire che ce l'abbiamo fatta. Il prezzo pagato in vite umane è stato però alto e, come spesso accade, ha messo in luce un atteggiamento scoraggiante di un mondo ricco che ha guardato da lontano un mondo povero morire nel peggiore dei modi, tra atroci dolori. Ma è davvero andata così? O meglio, è andata solo così? Forse, ad ascoltare meglio attorno a noi, ci sono centinaia di storie che cambierebbero il modo di pensare a Ebola e a molte altre cose. Iniziamo a raccontarvene una, quella di Saverio Bellizzi. Allora, io sono un medico, ematologo ed anche epidemiologo. Lavoro da 7 anni a tempo pieno nei paesi in via di sviluppo. Ho iniziato come licenza frontiere, poi ho avuto esperienze con la WHO e con la Croce Rossa Internazionale e adesso sono ritornato a mia licenza frontiere appositamente per l'Ebola. Allora, l'Ebola è un virus che causa una febbre emorragica, così come altri virus, per esempio il Marburg e altri ancora. È stato scoperto per la prima volta nel 76 e infatti il nome deriva da un fiume che sta al confine con l'attuale Congo, ex Zaire, e il Sud Sudan, esattamente laddove fu identificata la prima epidemia. Che vi raccontiamo oggi è dunque la storia di Saverio, una storia esemplificativa dello sforzo di centinaia che in prima fila in Europa o in Africa si sono battuti perché chiunque ricevesse cure adeguate. Storie di frontiera che spesso restano in silenzio, storie che da quest'anno abbiamo deciso di tirare fuori e portarvele perché la prima volta diventi un posto d'approdo di sognatori e persone di coraggio che trovano la forza di opporsi alla pigrizia di un pensiero stanco. Per fare questo ci sono tantissimi modi. Ad esempio, quando esplose il contagio di Ebola, un gruppo rapper scrisse una canzone, quella che state sentendo, nella quale si spiegava cosa si doveva fare e cosa non si doveva fare per contrastare il virus. Un'idea geniale, coraggiosa e generosa che ha sicuramente salvato la vita a tantissime persone. And who, la la la le. Aiutare gli altri è in fondo il tema di questa prima volta ed è il tema portante della vita di Saverio Bellizzi, 38 anni, medico laureato a Sassari, che su Africa e Ebola ha tanto da raccontare. Saverio è un uomo schivo, di poche parole, preparato e generoso, che ha passato giornate intere a soccorrere uomini, donne e bambini che forse, senza la sua presenza, non ce l'avrebbero fatta. Per questo si merita, lui come tanti, uno spazio in cui potersi raccontare. All we need now this waste for eradicate you. You so popular in always for the wash. You visit me family, I swear I no go touch. I go call 117. Ho fatto nell'ultimo anno, negli ultimi due anni appunto, 5 missioni nei paesi colpiti dall'Ebola. Ecco, in particolare dove è stato in queste missioni? Sono stato 3 volte in Guinea, una volta in Sierra Leone, una volta in Liberia. Quindi proprio nei paesi maggiormente colpiti, esatto, dal virus. In tutti e tre. La situazione in questo momento com'è? Allora, la situazione è notevolmente migliorata, ma non è finita. Infatti ci sono negli ultimi mesi una media di 30 casi aggregati in tutti e tre i paesi. Quindi sta andando ancora avanti e bisogna ancora mettere un sacco di forze per arginare l'epidemia, nonostante sia migliorata. Ecco, come ha letto, comunque cosa pensa di questo vaccino di cui si parla in queste ore e che è stato proprio testato e pare avere una copertura del 100%? Esatto, è una svolta epocale perché dagli anni 70, in cui ha fatto per la prima apparizione l'Ebola, non c'era mai stato un vaccino. Finalmente abbiamo un vaccino che scientificamente è provato ad essere efficace al 100% e soprattutto non è nocivo contro gli esseri umani su cui è somministrato. Quindi è un'arma in più, un'arma molto molto importante che potrebbe essere di valido aiuto nel bloccare le catene di trasmissione. Come si potrà fare anche ad arrivare nelle zone rurali più difficili da raggiungere per poter poi somministrare questo vaccino? Mi sembrava di ricordare anche che ci fosse molta ostilità da parte delle persone nei confronti dei medici, anche perché si arriva tutti bardati, insomma, ci può raccontare? Certo, anche negli ultimi mesi, nonostante più di un anno di epidemia, soprattutto nella Guinea, nella zona forestale della Guinea, ci sono ancora delle ostilità, la difficoltà ad accettare la situazione da parte di alcune popolazioni. Per cui la sensibilizzazione, l'opera degli operatori nella sensibilizzazione è di estrema importanza. Di conseguenza bisogna ancora continuare con le strategie classiche, la promozione alla salute, il controllo dei funerali, il trattamento dei pazienti e da abbinare appunto la somministrazione del vaccino, e noi spingiamo affinché il vaccino venga prodotto in quantità adeguate per far fronte alla situazione che c'è al momento, e esortiamo anche gli altri paesi in cui il vaccino non è ancora utilizzato ad utilizzarlo. Senta, le posso fare questa domanda che insomma mi premeva anche? Lei come medico era la prima volta che si occupava di Ebola o le era già successo di occuparsene nel corso degli anni precedenti, nel corso di altre epidemie? No, è stata la prima volta. Com'è stato entrare a contatto con un'emergenza, come diceva lei, così forte? Per me è stata particolarmente, mi ha colpito molto perché io sono arrivato per la prima volta all'inizio proprio dell'epidemia in Guinea, quindi a fine marzo scorso, quindi mi sono vissuto proprio i momenti terribili anche in Liberia a settembre. È stato molto, molto forte, molto impressionante dal punto di vista medico, ma soprattutto dal punto di vista personale, perché è veramente difficile per una persona che viene da questi paesi come l'Italia trovarsi in una situazione, in un'epidemia prima di tutto, e soprattutto in un momento in cui non si hanno le capacità di far fronte alla situazione. E c'è stato un momento in cui proprio si è sentito sovrastato da questa... Tutti gli operatori, tutti anche i miei colleghi in alcuni momenti ci siamo sentiti molto frustrati, soprattutto nei primi mesi dell'epidemia, in cui Medicenza Frontiera era l'unica organizzazione che cercava di far fronte e non aveva tutti i mezzi per coprire tutto il problema. Fortunatamente poi le cose sono migliorate grazie all'intervento di altre organizzazioni, però ha richiesto molto molto tempo. Come mai lei ha deciso di entrare in Medici Senza Frontiere? Perché ha deciso di fare questo lavoro? Ma io in realtà ho iniziato nel 2008 a Lampedusa con i migranti, quindi una lunga carriera che risale al tempo dell'università, ho avuto sempre una passione a lavorare in paesi in sviluppo, perché credo che sia importante aiutarci a vicenda, aiutarci non soltanto tra noi nella famiglia, ma aiutare l'essere umano in quanto tale. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo. Digital Radio Flash, Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio 24 è in digital radio. La prima volta. Io spesso come infermiere mi sono sentito dire grazie, ma se sono qui, sono io oggi a dover dire grazie a tanti uomini e tante donne, a tanti professionisti di diversi settori che hanno reso possibile la mia guarigione. Devo dire grazie a un'Italia fatta di persone che è restata coesa e ha lavorato come un'equipe, a tutti i medici, tutti gli infermieri della Task Force Ebola che mi hanno curato, sostenuto e fatto sentire non solo un paziente ma anche un amico da salvare a ogni costo. Grazie. E grazie per essermi stati accanto veramente tanto, con telefonate, con parole e con vicinanze. Il mio ultimo grazie alla mia famiglia, ai miei amici e ai colleghi che hanno combattuto e che combattono Ebola, perché sono stati anche loro vicini e mi hanno sostenuto. Se io oggi sto bene, e sto veramente bene, vi assicuro, il merito è tutto vostro, di tutti, di tutta questa macchina perfetta, che è stata impeccabile. Era il 10 giugno, Stefano Marongiu, infermiere di emergency colpito da Ebola durante un periodo di volontariato in Sierra Leone, veniva dimesso dopo un ricovero di 28 giorni allo Spallanzani. Marongiu, nel suo ringraziare impacciato e interrotto dall'emozione, ha riportato la questione al punto: prendersi cura degli altri. È dunque questo il tema che fa da cornice a questa puntata, a questa prima volta di coloro che sono andati, pur sapendo cosa stavano incontrando nei luoghi in cui l'epidemia di Ebola era più forte, scelte molto coraggiose, spesso ignorate da un occidente ricco e taccagno, sul quale così intervenne Gino Strada. Ma dico, ma questa è una società civile, ma il problema per me è alla base, cioè se abbiamo deciso di vivere insieme, cioè associati, dobbiamo definire i luoghi, i limiti, i contenuti di quella parte della nostra vita che si riferisce al bene comune, cioè all'interesse di tutti e di ciascuno di noi. Se no decidiamo di vivere non più associati, e vabbè, però è un dibattito lungo e comunque un processo lungo, no? Ma fino a quando saremo così è inevitabile che dobbiamo darci delle regole. E le regole però non possono essere quelle che escludono qualcuno. Perché se le regole devono valere per tutti, se i diritti devono valere per tutti, vuol dire che quando uno è escluso non va bene, siamo in difetto, e quando essere esclusi sono milioni è un crimine, e quando essere esclusi sono miliardi è una tragedia sociale di proporzioni incalcolabili. Oggi abbiamo qualche miliardo di persone che vive con meno di $2 al giorno, mentre un certo numero di persone fisiche che non raggiungono i 1000 possiede il 40% della ricchezza del pianeta. Vogliamo discutere di queste cose oppure vogliamo andare avanti a parlare se è morta la gallina della signora Marta? Protagonista della puntata di oggi è dunque il coraggio e soprattutto la generosità. In questo caso ha un nome e un cognome, si chiama Saverio Bellizzi, epidemiologo di Medici Senza Frontiera. Ho studiato a Sassari, sia laurea sia specializzazione, però ho fatto il master di epidemiologia a Londra e appunto dal 2008 collaboro con Medici Senza Frontiere. E quando torna in Italia, ad esempio quando è tornato in Italia la prima volta dopo, insomma, il forte shock ad essere stato in un paese così colpito da un'epidemia di Ebola, cosa ha provato, com'è stato? Ma un episodio particolare è che, per esempio, in una situazione di Ebola non ci si può nemmeno toccare, nemmeno stringerci le mani tra i colleghi, quindi è molto strano tornare dopo un mese, dopo la prima missione o anche dopo le altre missioni, e ritornare al contatto umano come prima di quando si è partito. Quindi ci sono veramente delle situazioni psicologiche, anche fisiche, che a cui fai veramente attenzione una volta che torni. Quindi era strano per lei stringersi, poi lentamente si è riabituato a questa cosa? Certo, cioè ogni volta è la stessa cosa, anche alla quinta volta che sono tornato era abbastanza, diciamo anche quasi comica la situazione, perché veramente a volte diamo per scontato molte cose che hanno una certa importanza, come appunto il contatto umano. Ci sono stati dei momenti in cui ha avuto paura per sé, insomma, durante questo anno di missione? In realtà no, perché è una malattia grave, altamente mortale, però nella quale si rispettano delle regole semplici in modo ferreo, standard, la si limita, il rischio si limita quasi al massimo. Che vi abbiamo raccontato è in fondo la prima volta in cui tanto è stato messo alla prova. L'Occidente è stato messo alla prova davanti a un virus capace di arrivare davvero sotto casa. È stato generoso l'Occidente, molti uomini capaci sono andati in Africa a dare il loro aiuto e la loro competenza. Due di loro ve li abbiamo fatti incontrare in questa puntata. Uno lavora per Emergency, l'altro per Medici Senza Frontiere. Entrambi hanno visto Ebola da vicino, contato i morti e vissuto momenti di grande scoramento, ma sono pronti per stendere nuovamente il braccio e dare una mano, in fondo la lezione più grande in assoluto. E con questo, e sulle note di questa musica della Sierra Leone, vi salutiamo. Siamo su Facebook, cercateci, La Prima Volta trattino Radio 24, venite a trovarci sul sito di Radio 24, cercate La Prima Volta. Ciao, a domenica prossima, da Cristina Carpinelli.